GR24, il sole 24 ore. Lombardia, legislatura finita, dice Formigoni, attacca Maroni, non può candidarsi. Legge di stabilità, arriva il testo, confermato il taglio delle detrazioni da quest'anno. L'Avana cambia le regole sui visti, i cittadini cubani potranno uscire dal paese col solo passaporto. Calcio stasera, la nazionale a Milano, Buffon non gioca. Una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione di GR24. In apertura dunque le vicende politiche della regione Lombardia. Si trova al Palazzo della Regione, dove questa mattina tra l'altro ha parlato Roberto Formigoni, la nostra Laura Bettini. Laura, buongiorno. Buongiorno a te Simone, buongiorno a tutti. Dopo le proteste di piazza di ieri, questa di oggi non è una giornata meno significativa al Pirellone, dove in apertura della seduta del Consiglio regionale lombardo il presidente Formigoni ha annunciato la fine della legislatura, l'intenzione di formare una giunta tecnica entro una settimana per andare al voto in tempi brevissimi. Sentiamo Formigoni. Che interrompere a questo punto la legislatura era ed è comunque un errore, ma poiché questa legislatura deve essere interrotta, meglio che l'interruzione sia rapidissima. Sarà comunque l'autorità competente a stabilire la data delle elezioni, che mi auguro il più ravvicinata possibile, e noi avremo compiuto fino in fondo il nostro dovere di permettere che il periodo di transizione sia brevissimo. Grazie. La Lega darà il suo contributo a questa giunta tecnica in termini di suggerimenti di persone per la giunta, ma ha ribadito il punto dell'Election Day. Sentiamo il capogruppo della Lega Nord in regione. Lombardi, bisogna anche spiegare che questo voto anticipato costerà 50 milioni di euro e che verranno tolti alle famiglie, verranno tolti alle imprese, perché questo è il costo di una elezione anticipata. L'Election Day consente che i costi vengano ripartiti fra Stato e Regioni. Il Partito Democratico pensa a termini un pochino più lontani di quelli di Formigoni, ma più vicini rispetto alla Lega. Al momento sono pronte le dimissioni di quasi tutti i consiglieri lombardi, nessuna però è stata formalizzata. Delle dimissioni del consigliere dell'Italia dei Valori Sola parlerà tra pochissimo in conferenza stampa Antonio Di Pietro. Ed è tutto. Grazie dunque Laura Bettini per questi aggiornamenti e ci spostiamo in un'altra regione, in un'altra sede della regione, quella della regione Lazio, dove l'opposizione sta protestando proprio per i tempi delle elezioni. Si trova là Andrea Viali. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno Simone. È un'occupazione simbolica quella in corso da stamattina nella sede della Regione Lazio, che si trova in via Cristoforo Colombo, no? Quindi la sede principale. Qui alcuni consiglieri dell'opposizione stanno presidiando l'androne del palazzo e chiedono che dopo le dimissioni della governatrice Renata Polverini, lo ricordiamo per lo scandalo dei conti pazzi, per la vicenda Fiorito, bene, anche nel Lazio chiedono che si voti entro dicembre come indicato dal governo e come si appresterebbe a fare anche la Lombardia. All'iniziativa partecipano esponenti del Partito Democratico, dell'Italia dei Valori, di Sinistra Ecologia e Libertà, tra loro c'è anche il capogruppo del PD, anzi l'ex capogruppo a questo punto del PD, Esterino Montino. Sentiamo cosa ci ha detto. Abbiamo occupato perché chiediamo che si fissi la data delle elezioni. È assolutamente inaccettabile questo tira e molla. È assolutamente inaccettabile, diciamo, che ancora non ci sia la chiarezza per la definizione della data. I consiglieri dell'opposizione si sono detti ad andare avanti. Si sono detti pronti ad andare avanti con questa occupazione fino a domani, giorno in cui ci saranno una serie di manifestazioni organizzate dal centrosinistra in tutti i capoluoghi di provincia del Lazio, proprio per chiedere di votare a dicembre. E sempre domani è in programma anche un incontro tra l'ex governatrice Polverini e il ministro dell'interno Cancellieri, incontro dal quale potrebbe uscire la data del voto nel Lazio. Per ora è tutto, Simona. E grazie ad Andrea Viali. Per chiudere la pagina di politica, parliamo di Partito Democratico, perché al centro della scena c'è ancora Massimo D'Alema. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così Simone, la vera novità nel PD arriva oggi per quanto riguarda la candidatura di Massimo D'Alema e la dà il segretario Pierluigi Bersani che interviene su Repubblica.it. Non chiederò a D'Alema di candidarsi, dice appunto Bersani, non chieda a nessuno di candidarsi, non sono quello che nomina i deputati, farò applicare la regola per chi ha fatto più di 15 anni, per essere candidato deve singolarmente chiedere una deroga alla direzione nazionale, una mossa che spiazza chi vota Matteo Renzi per evitare che venga di nuovo eletto D'Alema. La ruota girerà, assicura poi Pierluigi Bersani, l'esigenza di rinnovamento c'è e la si fa con serietà perché io sono certo della generosità di chi ha fatto il PD. Riguardo alla candidatura di Mario Monti, Bersani dice che l'attuale premier avrà un ruolo anche dopo le elezioni, ma si ragionerà assieme. Il segretario del PD critica poi però alcuni provvedimenti del governo come le pensioni, una riforma da correggere a parità di risparmio, dice, chiede la reintroduzione del falso in bilancio, qualcosa per gli esodati sulla legge di stabilità e cambiamenti sulla scuola. Sull'esecutivo invece Bersani ammette che ha dei limiti con le lobby troppo vicini alle commissioni. Infine la legge elettorale, se non cambierà, promette Bersani, il PD farà le primarie per scegliere i candidati in Parlamento. E per il momento qui da Roma è tutto, poi studio. Grazie Elisabetta Fiorito, che già ci parlava delle modifiche richieste dal Partito Democratico ad alcuni elementi della politica economica del governo. Ebbene, è arrivato oggi il testo della legge di stabilità, mentre l'esecutivo è riunito per il DDL semplificazioni. Ci colleghiamo con Palazzo Chigi e con Alessandra Schepisi. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Consiglio dei ministri in corso, sul tavolo il DDL semplificazioni, ma il governo sicuramente sta facendo anche il punto sulle eventuali correzioni alla legge di stabilità, sulle critiche piovute sul provvedimento approvato la scorsa settimana, governo che intanto conferma, come si legge nel testo, non ci sarà nessun rinvio al taglio degli sconti fiscali per i cittadini, questo significa che la scure sui contribuenti andrà a colpire già i redditi del 2012 con effetto di cassa nelle dichiarazioni del 2013, una stretta che riguarda gli interessi sul mutuo per la prima casa, le spese sull'acquisto dell'abitazione principale, le spese per l'asilo nido e l'istruzione dei figli. Il Parlamento ovviamente potrà modificare queste misure, ma dovrà trovare coperture per oltre 1 miliardo di euro. Non ci sarà invece la stretta sui permessi dei dipendenti pubblici per assistere i familiari disabili e nemmeno la tassazione delle pensioni di invalidità. Ma tornando a quanto previsto all'ordine del giorno, il DDL semplificazioni è un provvedimento che dovrebbe semplificare la vita di cittadini e imprese con un risparmio per quest'ultime di 3,7 miliardi di euro, tra le novità meno burocrazia per assumere lavoratori stagionali, tempi certi per i permessi di costruzione, all'esame del Consiglio dei Ministri anche la strategia energetica nazionale con l'obiettivo di dare al Paese energia ad un costo più basso dell'attuale. E da Palazzo Chigi è tutto, a voi la linea. E restiamo sui temi di politica economica ed agenda di governo, sui contratti a termine, l'intervallo tra un rinnovo e l'altro si potrebbe ridurre ad un mese al massimo. Si preparerebbe così il primo intervento di correzione in corsa alla riforma sul lavoro a 3 mesi dalla sua nascita, dal suo varo. È stato lo stesso ministro Elsa Fornero a dirlo in un'intervista al Sole 24 Ore. Si pensa appunto a contratti a termine meno rigidi, ha detto il ministro, perché i tempi per i rinnovi sono troppo lunghi. Oggi serve un'interruzione di 60-90 giorni e ci sono 400.000 contratti a termine in scadenza, il 40% nella pubblica amministrazione. Positivo il parere del professor Carlo Della Ringa, docente di economia politica all'Università Cattolica di Milano ed esperto di lavoro, secondo il quale il prossimo passo è estendere ai contratti a termine le regole appena varate per le start-up. Sentiamolo al microfono di Anna Marino. Ero già del parere che sui contratti a tempo determinato si fossero introdotti paletti in misura eccessiva, sia in termini di costi burocratici che di costi monetari. Dal mio punto di vista questo andava a colpire un tipo di flessibilità che anche nel linguaggio corrente viene definita una flessibilità buona, a maggior ragione in un periodo di crisi occupazionale. Si pensa a un mese al massimo di sospensione tra un rinnovo e l'altro. Secondo lei è congruo come termine? Sì, potrebbe essere un termine che potrebbe al contempo disincentivare un abuso di queste forme contrattuali. Però qualcuno proponeva di estendere a tutti i contratti a termine addirittura le norme che sono flessibilissime previste per le start-up. Che non ci sia bisogno di esporre la causale. Questa è una rivoluzione dal punto di vista proprio logica, perché assimila a questo punto i contratti a tempo determinato a quelli a tempo indeterminato. Entrambi sono contratti normali che l'impresa usa fisiologicamente. Io penso che poi nel tempo, una volta rotto questo, diciamo così, questa barriera di carattere ideologico, penso che si andrà in avanti inevitabilmente, quindi allargare il principio della non causalità a tutte le forme di contratti a termine per tempi anche più lunghi. Quindi secondo lei la direzione è quella di diciamo togliere questa differenziazione così marcata tra tempo determinato e tempo indeterminato? Esattamente, lasciando eventualmente quello che c'è già nei contratti collettivi, e cioè che possono essere emessi dei tetti quantitativi con numero di contratti determinati sul totale dei contratti. Inizia oggi il suo iter il DDL sulla corruzione, è appunto in aula, è una priorità del governo, ha detto il presidente del Consiglio Mario Monti. La guardasigilli Paola Severino ha incontrato questa mattina i rappresentanti dei gruppi parlamentari di maggioranza PDL, PD e UDC. Obiettivo del confronto: anticipare eventuali richieste di ulteriori correzioni al provvedimento. Nel frattempo, sempre in tema di giustizia, c'è il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La vicenda l'avete letta sui giornali, l'avete sentita nei giornali radio questa mattina, Giorgio Napolitano che dice: volevano colpire me. Il tono di uno scambio di lettere tra il Presidente della Repubblica e il consigliere giuridico Loris D'Ambrosio, morto di infarto nel luglio scorso. I due si riferiscono alle inchieste sulle presunte trattative Stato-mafia. Il Capo dello Stato ha ieri definito legittima la decisione di ricorrere alla consulta perché non fossero rese pubbliche le conversazioni dell'inquilino del Quirinale. Su questi temi, sui temi della giustizia, il punto di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Una delle eredità che Napolitano lascerà fra pochi mesi al suo successore sarà il difficile e spesso conflittuale rapporto fra politica e magistratura. Ritrovare un equilibrio equivale a restituire certezze ai cittadini. Insomma, un obiettivo storico, se mai si riuscirà a ottenerlo. Vorrà dire avere forse una giustizia che funziona e che produce sentenze in un lasso di tempo ragionevole come nel resto d'Europa, non solo inchieste spettacolo e processi mediatici, quindi quasi sempre virtuali. Nelle parole di ieri del Presidente della Repubblica c'era tutto questo e c'era tanta amarezza dovuta agli attacchi subiti dopo la vicenda delle intercettazioni disposte dalla Procura di Palermo. Napolitano ha svolto il suo mandato nel modo più rigoroso in questi anni e i tentativi di coinvolgerlo in vicende oscure con sospetti e insinuazioni senza fondamento la dice lunga sullo stato della giustizia nel nostro paese. Non aver saputo o voluto ammodernare il sistema giudiziario è una delle ragioni della perdita di credibilità del sistema politico. Dal 13 gennaio i cittadini cubani potranno viaggiare liberamente all'estero senza bisogno di richieste di permessi alle autorità. Per uscire dal paese sarà sufficiente presentare un passaporto in corso di validità. Carlos Carralero, dissidente cubano e scrittore, è molto critico. Lo ha intervistato Katia Caramelli. Premetto, non è che sono il pessimista di sempre, il scettico di sempre. Con il Castro non ci saranno delle vere riforme. Loro dovevano fare qualcosa, dovevano compiere qualche piccola riforma. Ancora questa riforma ha tante limitazioni. Usciranno le stesse persone che non hanno nessuna presenza o politica o importante. Prima già mettono la pezza e dicono che si riservano il diritto di porre delle limitazioni. Che vuol dire che i medici, i sportivi importanti, i militari non potranno avere il visto. Poi i dissidenti che loro non vogliono per capriccio, perché vogliono uscire e poi tornare, e ormai conosciuti come Giovanni Sanchez, non potranno, non avranno né passaporto né visto né niente. Sarà una legge discriminatoria. Che cosa succederà a chi come lei invece è uscito prima? Potrà rientrare? No, guarda, le persone come noi abbiamo una sorta di anatema, uno stigma, io non posso, io sono sulla lista nera. Everyone who spoke tried to give the information that they had. As time has gone on, la voce che sentite è quella di Hillary Clinton. Sono io la responsabile, ha parlato così il segretario di Stato americano, assumendosi tutte le colpe per l'assalto l'11 settembre scorso all'ambasciata americana a Bengasi, in Libia, nella quale morì l'ambasciatore Chris Stevens, una vicenda che sta pesando anche sulla corsa alla Casa Bianca. Il presidente Obama non c'entra, ha detto Clinton. Questa notte, tra l'altro, ci sarà il secondo dibattito tra Barack Obama e Mitt Romney. Veniamo all'Italia. Oggi a Grosseto, secondo giorno dell'udienza per l'incidente probatorio sul naufragio della Costa Concordia. Ha rivolto un saluto alle telecamere con un buongiorno e un cenno della mano Francesco Schettino, puntuale anche oggi al Teatro Moderno di Grosseto, trasformato in aula di giustizia per il secondo giorno d'udienza dell'incidente probatorio sul naufragio della Costa Concordia, costato la vita a 32 persone. In discussione oggi la perizia sulla falla creata dall'urto della nave con gli scogli dell'Isola del Giglio la sera del 13 gennaio. La verità è ancora tutta da accertare, ha detto ieri l'ex comandante, che davanti ai naufraghi presenti in aula ha sostenuto di aver salvato la vita con la sua manovra a molti passeggeri. Da chiarire a colpi di perizia le responsabilità del naufragio tra i 10 indagati, Schettino, gli altri componenti della catena di comando e l'unità di crisi della Costa Crociere. Il Teatro Moderno, con i suoi 1000 posti a sedere, si sta rivelando persino troppo ampio. 2 passeggeri su 3 hanno già accettato i risarcimenti proposti dalla compagnia e hanno quindi rinunciato ad andare avanti nell'iter giudiziario. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso torniamo all'economia, iniziando dai dati sulle immatricolazioni arrivati oggi. Ci aggiorna in diretta il collega del Sole 24 Ore, Andrea Malan. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno a tutti. I dati relativi al mese di settembre sono negativi. Il mercato, le immatricolazioni sono calate dell'11% a livello europeo, con un meno 25% per l'Italia, ma sono andate male anche la Francia e soprattutto, e questa è una novità, la Germania, che ha perso anch'essa l'11%, mentre nei mesi precedenti aveva tenuto, ed è proprio il calo del mercato più importante, il segnale più preoccupante di questo mese. Per quanto riguarda i marchi, continua ad andare male il gruppo Fiat, penalizzato naturalmente soprattutto dal calo delle vendite in Italia. Fiat ha segnato un calo del 18% delle immatricolazioni, con una quota che nei 30 paesi dell'Unione Europea più EFTA è scesa al di sotto del 6%, mentre era al 6,5% l'anno scorso. Grazie Andrea Malan per questi aggiornamenti. Noi, prima di parlare di sport, parliamo di Alitalia, che annuncia oggi il piano industriale. 690 esuberi, di cui 300 assistenti di volo, 300 dipendenti dello staff di terra e 90 nella manutenzione. È questo che prevede il piano industriale di Alitalia, illustrato oggi ai sindacati. Il risparmio è di circa 30 milioni di euro. Queste persone si vanno ad aggiungere ai 700 cassintegrati richiesti un anno fa e ai 4.300 dipendenti che erano in cassa integrazione fino a ieri e che da oggi sono in mobilità, a un passo quindi dal licenziamento. Il tentativo è quello di far quadrare i conti. L'avventura dei cosiddetti capitani coraggiosi della cordata CAI, che Berlusconi convinse 4 anni fa a rilevare Alitalia lasciando 3 miliardi di debiti nelle tasche degli italiani, finora non è stata affatto rosea. Nel primo semestre la perdita netta è stata di 200 milioni di euro e anche l'italianità della compagnia, che era il cuore dell'avventura dei capitani coraggiosi, scricchiola. Il 25% è già in mani francesi e a gennaio scade il vincolo per i soci CAI a non vendere le quote. Benetton e la famiglia Riva si sono scoperti meno coraggiosi del previsto e hanno già detto che sono pronti a vendere. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo in chiusura e parliamo di sport, di calcio. Stasera Milano accoglie la nazionale. Carlo Genta, buongiorno. Buongiorno a te Simone, a tutti gli ascoltatori. Accoglie la nazionale, riaccoglie Balotelli, non accoglierà invece, ed è notizia di una mezz'oretta fa, Gigi Buffon, che non sarà della partita con tutte le polemiche che ne seguono e ne seguiranno. Ha provato a fare allenamento ieri sera a San Siro, l'allenamento non è andato benissimo, questa mattina una riprova, ma la risposta muscolare non è stata quella che ci si attendeva e dunque Buffon non gioca, gioca al portiere del Napoli De Santis. Sabato alle 18 c'è Juventus-Napoli, fate voi i vostri conti con tutte le polemiche che accompagneranno questa partita, compreso quella della CT danese Olsen, che ha ritirato fuori la storia del biscotto del 2004. Ne parleremo in tutti i convocati alle 14, Simone. Grazie Carlo, dunque ci risentiamo alle 14. È tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia con in regia Roberto Scaltritti. Prossimo giornale appunto alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buona giornata da Adriana Fracchi e ben ritrovati per una nuova edizione di GR Spettacoli. La premiata Forneria Marconi festeggia 40 anni di musica con il cofanetto Celebration 1972-2012. Il titolo è quello del triplo CD in uscita oggi e che contiene gli album Storia di un minuto e Per un amico, entrambi del 1972 e rimasterizzati per l'occasione. Nella scaletta del terzo CD invece alcune rare versioni di successi suonati dal vivo e poi registrati. In più un libro di 60 pagine curato da Sandro Neri, ricco di aneddoti, racconti e foto di quel periodo. Sentiamo Franco Mussì da Franz di Cioccio e Patrick Givas. Riguardare queste cose fa un po' tenerezza. Devo dire che di quel periodo però ci portiamo dietro un modo di essere che è rimasto intonso negli anni, per cui quel cofanetto ha dentro i suoni di quel periodo, un'epoca che è l'epoca che bene o male comunque ha segnato una svolta nella musica italiana e non solo. Noi però, siccome non viviamo di nostalgie, abbiamo voluto mettere dentro un altro disco che invece rappresenta la nostra quotidianità. Adesso ti passo Franz. Quello che offre questo cofanetto che esce è mettere un punto, risettare l'ardizio e la memoria. Il rock italiano ha un capostipite, questo capostipite si chiama PFM, perché in tempi non sospetti ha avuto il coraggio di abbandonare il modo di fare dischi di altri. Un giorno abbiamo deciso che la musica e non la canzone in sé, ma un modo nuovo di fare musica doveva essere il segno per il futuro. Avevamo il futuro davanti, dovevamo interpretarlo, lo abbiamo interpretato così. Premiata Forneria Marconi è un gruppo di persone che impasta musica anziché il pane. Impasto Patrick. Sì, chiudiamo sui progetti futuri della PFM. Okay. Per il futuro, il nostro progetto è sempre lo stesso, è sempre quello di suonare, di andare in giro, di fare tanti concerti. Stiamo preparando anche tante altre cose, molte sono novità, sono anche un po' delle sorprese, non solo per il nostro pubblico ma anche per noi. E per celebrare i loro 50 anni di carriera, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Hood hanno invece affidato a YouTube l'atteso annuncio di un nuovo tour con un video. Is everybody ready? Is everybody ready? Are you ready? Yeah, we're ready. You must have guessed this was coming. Le quattro date, 25 e 29 novembre allo 02 Arena di Londra e il 13 e il 15 dicembre al Prudential Center di Newark, vicino a New York, segnano il ritorno sulla scena per i Rolling Stones, che non si esibivano insieme dal 2007. A 7 anni dal successo di Unplugged, lo spettacolo dal vivo campione assoluto di incassi per la stagione teatrale 2005-2006, Aldo, Giovanni e Giacomo tornano dal vivo in un nuovo show teatrale. Ancora una volta hanno scelto di affidare la regia ad Arturo Brachetti. Giacomo Poretti al microfono di Maria Piera Ceci. Il 30 di novembre debuttiamo con i miei soci, con Giovanni e con Aldo, uno spettacolo teatrale nuovo che girerà un po' tutta l'Italia. Il titolo lo sappiamo? Non ancora, perché ci sono un po' di ipotesi ma non l'abbiamo ancora definito. Fine mese lo sapremo. Adesso siamo in teatro, stiamo allestendo gli sketch, le situazioni, stiamo lavorando con Arturo Brachetti che è il nostro regista, quindi racconteremo in 7-8 situazioni sketch diversi, moderni. È tutto per questa edizione di GR Spettacoli. Un saluto da Adriana Fracchia.